Radio 24 Reportage. Yemen, un paese drogato, di Roberto Bongiorni e Giampaolo Musumeci. هل في منطقة هذه التجارة في القات هل هي ثقافة عند الناس؟ لا يعني تعودوا عليها نفس الوضع. وفينا علشان المعيشة من يعيش. Fino a qualche anno fa coltivavamo cose diverse, come per esempio fiori, riso, zucchero, e poi a causa della siccità abbiamo iniziato a dover scavare pozzi ed estrarre l'acqua. E tutto ciò ha un costo. E solo il CAT ci permette di ripagare le spese. Mio padre era un agricoltore, ma non coltivava CAT, faceva altro, frutta e anche sale. Nasce qui, da questa piantagione di CAT, in uno sperduto villaggio nella regione del Mawit, la pianta e la droga che sta mettendo in ginocchio lo Yemen. Se pensate che sia Al-Qaeda la minaccia numero uno, vi sbagliate. Ibrahim, il coltivatore che incontriamo e di cui sentite la voce, racconta le difficoltà del suo lavoro. Ogni volta che i ladri pensano che non c'è sufficiente sicurezza attorno alla piantagione, vengono qui e provano a rubare, di giorno, di notte, non importa l'orario. Così ogni agricoltore, i suoi figli, i suoi collaboratori, ha il suo fucile e assegna i turni di guardia. Così racconta Ibrahim, mentre mostra orgoglioso il suo fucile d'assalto americano. Sì, continua, alcuni cercano di rubare, per questo teniamo la nostra sicurezza nei campi di CAT. Molte volte ci sono sparatorie e i ladri vengono uccisi. Sì, registriamo molti casi del genere. Nella capitale dello Yemen, a Sana'a, scopriamo quanto il CAT sia importante, quanto renda e quanto influisca nella vita quotidiana degli yemeniti. Lo Yemen senza il CAT sarebbe come un corpo senza le gambe. Il CAT è parte del paese, della nostra cultura, delle nostre tradizioni. Così sintetizza Hussein Mohamed Al-Bayadi, 54 anni, proprietario di un mercato di CAT a Sana'a, e racconta il sentire di un'intera popolazione. Can I ask him his name or what is he? Fogliolina dopo fogliolina, selezionando accuratamente i fasci e masticando con piacere, Al-Bayadi ci fa da guida nel chiassoso mercato di CAT di cui è proprietario. Elegantissimo, con la jambia, il pugnale tradizionale intarsiato in oro alla cintura, è uno ricco Al-Bayadi e sa il fatto suo. Ben 20 negozi nella zona gli appartengono e, a dispetto del sorriso sornione e del fare da galantuomo, ha i mezzi per difendere il suo business. Tutti gli strati della società yemenita masticano CAT, racconta, i businessmen, i politici, gli artigiani, ma anche gli sportivi. C'è un crescente dibattito attualmente nel paese. Alcune ONG conducono campagne che criminalizzano l'uso del CAT. Puntano il dito sugli effetti sulla salute e sull'economia di un intero paese. Il boss del CAT risponde così a queste critiche. Secondo la mia opinione, dice, il kat è migliore delle droghe. C'è un ONG qui che attacca poster e fa campagne contro chi mastica kat. E noi abbiamo fondato una nuova organizzazione per proteggere il kat e combattere le droghe. Abbiamo fatto disegnare dei poster in cui si vedono uomini che masticano kat e costruiscono un minareto. E altri invece che mostrano chi consuma droga e che poi muore. Insomma, per sintetizzare, masticare kat ti porta in paradiso. Eppure, ciò che milioni di yemeniti ritengono un irrinunciabile dono della natura è anche ciò che sta portando il paese alla rovina. Perché se nel 2025 Sana'a rischia di divenire la prima capitale al mondo senza acqua, in buona parte lo si deve al kat. E se lo Yemen da alcuni anni è costretto a importare ortaggi quando potrebbe esportarne, la maggiore responsabilità è ancora una volta del kat. Per scoprirlo, andiamo nel più grande ortomercato di Sana'a. Qui, nel pieno dell'attività, ci raccontano come nelle zone montuose si coltivi soprattutto questa droga e si siano abbandonate le verdure per lasciare spazio appunto a questo arbusto. In effetti, coltivare il kat è il più remunerativo degli investimenti. Rende, pensate, 5 volte tanto la coltivazione dell'uva, 25 volte quella dei cereali. Ecco perché i contadini yemeniti lo stanno progressivamente sostituendo a frutta e verdura. Le piantagioni della pianta della felicità crescono a un tasso del 12% l'anno. Negli anni 70 lo Yemen importava dal 5 al 7% di prodotti agricoli. Ora siamo al 92%, ci raccontano all'ONG Yemen senza kat. Se ogni mese le famiglie bruciano il 30% del loro reddito, se le produttività medie sul lavoro è precipitate a livelli insostenibili e se metà del budget governativo viene tritato dai molari degli yemeniti, la risposta è sempre la stessa, il kat. Lo Yemen è forse il paese più drogato e più dipendente al mondo. Definito dai più tolleranti un blando narcotico eccitante, bollato dai più critici una droga a tutti gli effetti, il kat scandisce gli orari, divide la giornata e corona i rituali. E lo si vede passeggiando per le strade di Sana'a, per i villaggi del paese. Tutto inizia alle 2 del pomeriggio, quando si riempiono i mercatini. Il più popoloso e povero paese del mondo arabo si ferma. Uomini adulti, anziani, ma anche donne al riparo delle mura domestiche si dedicano alla stessa attività. È come se ci si imbattesse in un'epidemia di ascessi alla bocca. Il volto di ogni uomo yemenita comincia a mostrare una protuberanza. Dopo le 4 del pomeriggio è difficile trovare qualcuno che non abbia le guance gonfie a dismisura e la bocca che schiuma una poltiglia verde. La scelta della fogliolina giusta richiede tempo, perché il kat è come il vino. La sola differenza è che va consumato fresco, dura circa 6 ore. Ve ne sono di moltissime qualità, per tutte le tasche e tutti i gusti. Il più caro costa 10.000 rials, circa 45 dollari al fascio, il più economico 500. La qualità migliore è quella coltivata in montagna. Ci richiamo da chi sfida tutto ciò, da chi mette in discussione il sistema kat. L'ufficio di Mahmoud al-Umayya si trova all'11° piano di un edificio nella parte moderna della città. L'ascensore è ancora una volta inservibile, colpa delle tribù che per far pressione sul governo, con cadenza quasi quotidiana, tagliano le linee elettriche. La battaglia di al-Umayya è una sfida quasi impossibile, quasi come quella del governo che tratta con le tribù, affrancare il paese dal giogo del kat. Questa ONG Yemen senza kat è nata nel 2001. I risultati finora non sono stati entusiasmanti, ma qui tirano dritto portando avanti la loro battaglia. Qui si mastica kat da 500 anni, raccontano. Occorre pazienza. Qualche risultato lo abbiamo raggiunto. Grazie alle nostre campagne un numero limitato di persone ha smesso di consumarlo e comunque c'è più consapevolezza tra la gente riguardo ai rischi. I danni sul piano sociale sono enormi. Ogni yemenita spende mediamente 500 rials, cioè 9 dollari al giorno, per acquistare kat. Nelle famiglie più povere a volte si spende più per il kat che per il cibo o per l'affitto. Se 9 milioni di yemeniti masticano 500 rials di kat al giorno, stima peraltro prudente, significa che ogni anno vengono bruciati 4,5 miliardi di dollari, circa la metà del budget del governo del 2013. Anche secondo la World Health Organization, il 90% circa dei maschi adulti mastica kat per 3-4 ore al giorno. Il kat è forse la maggiore economia, dopo un petrolio, peraltro in via di esaurimento. C'è un legame diretto tra consumo di kat e produttività del lavoro, spiega al-Umayya. I consumatori di kat sostengono che questo eccitante riduca la stanchezza e li motivi al lavoro, ma avviene il contrario, senza parlare dello spreco di tempo. Supponiamo che 10 milioni di yemeniti masticano kat per 6 ore al giorno. Ebbene, sono 60 milioni di ore di lavoro sfumate. Ma non è il solo problema qui in Yemen. L'altra faccia del kat la scopriamo dietro un pesante cancello di ferro in un reparto dell'Al-Amal Hospital. All'ospedale psichiatrico di Sana'a il direttore e il suo team sfoggia i suoi dati. Il 90% dei nostri pazienti, racconta, ha problemi legati all'abuso di CAT, che provoca nei soggetti predisposti patologie come schizofrenia e psicosi. Questo paziente racconta di essere qui da 9 giorni e fino al ricovero consumava tutti i giorni 5.000 rials di CAT. Vi sono anche donne fra i ricoverati, come spiega un infermiere, presentando il caso di una donna di 35 anni che era CAT dipendente. This case is Amal, her age is 35 years. Questa è la storia del CAT, di una piccola fogliolina che è però una grande minaccia, forse maggiore della tanto temuta Al-Qaeda che qui in Yemen ha i suoi nuovi bastioni e le sue nuove roccaforti. Nel tempo trascorso nell'ascoltare questo reportage, gli yemeniti hanno già bruciato circa $200,000 in CAT. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.